amore che poi dormi, amore che sai sempre cosa fare. Tu che appena sveglia cerchi senza un senso una Marlboro da fumare. Amore, tu che rendi tutto semplice, anche la scelta più difficile da prendere. Sì, mi piaci, tu che anche quando piove vuoi sempre andare al mare. Amore, amore, amore senza mode, tu che ti vesti sempre uguale. E se ti prendo in giro lasci perdere. Tanto lo sai, non ho più niente da nascondere. E quando non sei a casa c'è troppo silenzio, e come sempre c'hai ragione te. Anche quando mi fai quei tuoi discorsi strani e poi dai la colpa a me. E mi va bene così, va bene, ma non lo vedi che non faccio altro. Ma non lo senti che ti sto pensando, ti sto pensando, ti sto pensando. E vorrei dirti che mi fa paura pensare che non ci sarà un domani. Come i finali tristi di quei film americani, come perdere ai rigori la finale dei mondiali. E lo sai che per te potrei pure smettere. Ma te lo leggo in faccia che non mi vuoi credere. E quando non sei a casa c'è troppo silenzio, e come sempre c'hai ragione te. Anche quando mi fai quei tuoi discorsi strani e poi dai la colpa a me.